ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro sesto, versi 571-721. Libro settimo, versi 1-158. Tereo, re dei Traci e sposo felice di Progne, principessa ateniese, spedito da lei ad Atene a prelevare la sua sorella amatissima Filomela, impazzisce d'amore per la stupenda cognata, la segrega in un capanno, la stupra, le mozza la lingua e racconta in singhiozzi a sua moglie che sua sorella è morta. Dio Sole ha passato in rassegna i 12 segni dell'anno e Filomela che fa? Un piantone impedisce la fuga. Son rivestiti di pietra i muri della capanna. La bocca muta non può raccontare, ma grande è l'astuzia del dolore e l'estrema disgrazia è di per sé una risorsa. Su di un rozzissimo ordito tesse abilmente una tela e, inserendo tra i fili bianchi lettere rosse, denuncia il delitto. Finito il lavoro, lo affida a una donna e da gesti la incarica di consegnarla alla padrona. La donna consegna a Progne, ignorando che cosa le stia consegnando. La sposa del re scellerato svolge il tessuto, legge la miseranda epopea della sorella e, incredibile che ci riesca, tace. È il dolore a tapparle la bocca. Mancano alla sua lingua le parole per tanto orrore. Né ha tempo per piangere. Bene e male le si confondono in testa, sprofonda. Non ha negli occhi che la vendetta. Si è fatto il tempo in cui le donne di Tracia festeggiano il culto triennale di Bacco, custode del culto, la notte. Nottetempo il rodope stride dell'acuto tinnire dei bronzi. Nottetempo esce di casa la regina, acconciata secondo gli usi rituali, con tutta la messa in scena dell'orgia. Si è coronata di tralci, a sinistra le pende una pelle di cervo, in spalla si mette una lancia leggera. Con un codazzo di giovani donne si avventa di corsa nei boschi, frenetica di dolore, simulando, Bacco, le tue frenesie. Arriva così al capanno appartato, ululando, e, ululando Evoè, sfonda la porta e rapisce la sorella. Alla rapita fa indossare le insegne di Bacco e, nascostole il viso sotto una gran cascata di edere, sbalordita se la trascina all'interno del proprio palazzo. A vedersi nella dimora dell'infame re, Filomela inorridisce e sbianca in faccia la poverina. Trovato il posto adatto, Progne le toglie le insegne del culto, le scopre quel viso rosso dalla vergogna, fa per abbracciarla, ma lei non osa guardarla negli occhi, rivale adultera, lei, di sua sorella. Lo sguardo a terra vorrebbe chiamare per testimoni gli dèi che quell'infamia le è stata imposta con la violenza, e il gesto supplisce alla voce. Prende fuoco Progne, trabocca di collera e, tacitando il pianto della sorella, non è tempo di lacrime questo, dice, è tempo di agire col ferro o con qualcos'altro, se ti viene in mente, più duro del ferro. Quanto a me, sono pronta a qualsiasi impietà. Mi sento di mettere a fuoco con le torce il palazzo reale e di gettare nel rogo Tereo, l'autore del crimine, o di cavargli col ferro la lingua, gli occhi e quel membro che ti ha svergognato, o di fargli schizzar via da mille ferite quello schifo d'anima. Sì, son pronta a qualsiasi eccesso, non so quale, ma pronta sono. sta ancora parlando che Iti viene dalla sua mamma. A vederlo un pensiero la visita. Lo guarda con occhi feroci, mormorando: «Ah, quanto somigli a tuo padre!» Altro non le esce di bocca, in un ribollire di collera muta il delitto le si affaccia atroce alla mente. Ma quando il bambino le corre addosso e per farle festa le getta le sue braccine al collo e la tempesta di baci e mescola ai baci carezze e mossette, la madre si lascia commuovere, l'ira per un attimo si scoraggia, le si riempiono gli occhi di lacrime che non vorrebbe. Appena si sente però vacillare di tenerezza materna, torna con gli occhi al viso di sua sorella e, guardando ora l'uno, ora l'altra, «Come mai questo qui, si domanda, può vezzeggiarmi e lei, con la lingua mozza, non può? Lui sì che mi chiama mamma, ma lei non mi chiama sorella. Guarda chi hai sposato, figlia di re Pandione. Non tralignare. Pietà per un tale marito è delitto. Un attimo, è come una tigre in riva al Gange, trascina nella foresta un cerbiatto lattante, trascina Iti in una stanza appartata del grande palazzo, e da lui che le tende le mani e ha capito che destino lo aspetta, e la chiama mamma, mamma, e le si appende al collo. Progne pianta la lama fra l'anca e le costole, senza girare gli occhi. A dargli la morte quell'unico colpo basterebbe, ma Filomela gli vuol tagliare la gola, e quel corpicino, ancora aggrappato alla vita, le due lo fanno a pezzi e ne mettono parte a bollire nel rame, parte a sfrigolare allo spiedo. La stanza è un lago di sangue. La pietanza è questa, che Progne serve in tavola a Tereo ignaro e, inventandosi un rito della sua terra, pretende che il marito pranzi da solo. Commensali e servi spariscono. E lui, seduto sull'inclito seggio degli avi, lui, Tereo, pranza stipando lo stomaco di carne della sua carne. Brancola in tanta notte che dice «Chiamatemi Iti!» E Progne non dissimula più l'orrendo entusiasmo e smania di annunciare lei stessa il massacro compiuto. Chi cerchi lo hai dentro di te. Quello si guarda intorno e continua a cercarlo. Ed a lui che lo cerca ancora e lo chiama, così com'è, scapigliata dal forsennato macello, Filomela irrompe e scaglia la testa grondante di Iti in faccia al padre. Mai avrebbe voluto tanto parlare per proclamargli la sua gioia come si merita. Il trace rovescia la tavola con un urlo immane e convoca le sorelle crinite di serpi dalla conca di Stige, e a tutta prima, potendo, si sarebbe squartato a metà per vomitare l'orrendo cibo, la carne ingoiata. Poi piange, poi si interpella sepolcro del povero figlio, poi si scaglia la spada in pugno dietro le due sorelle. I corpi delle ateniesi sembrano metter le ali e le mettono. L'una svolazza verso la selva, l'altra si caccia sotto la gronda, portando ancora le tracce di quella carneficina, le piume striate di sangue. Istigato dal proprio dolore e dall'ansia di vendicarsi, anche lui si cambia in uccello. Gli si drizza in testa una cresta e a guisa di lancia protende un becco spropositato. Upupa, è detta, ha una testa che a guardarla ti sembra armata. Questo dolore avvia Pandione, prima del termine prescritto a una lunga vecchiaia, tra le ombre del Tartaro. Lo scettro e il governo del suo paese li assume Eretteo, non sai se più prestigioso per le armi o per la giustizia. Aveva messo al mondo 4 ragazzi e altrettante ragazze, 2 delle quali una più bella dell'altra. Cefalo, pronipote di Eolo, è tuo sposo felice, Procri, dio Borea, per colpa di Tereo e dei Traci, lui Trace, non riesce ad ottenere la sua adorata Oritia con le preghiere, piuttosto che usare la forza, lui prega. Ma non ottenendo un bel nulla con le buone, furente di rabbia, rabbia fin troppo usuale per un vento, fin troppo di casa, me lo merito, dice, perché ho messo da parte le mie armi, la brutalità, la violenza, le belle minacce, e mi son dato alle suppliche che non mi si addicono affatto. La forza è la mia partita, con la forza incalzo le nuvole nere, spavento il mare, schianto le querce nodose, indurisco la neve, flagello la terra di grandine. Di più, se in cielo aperto è quello il mio campo, mi imbatto nei miei fratelli, li affronto con tale pazzo furore che l'aria interposta rintrona dei nostri cozzi e dal cavo delle nuvole si sprigionano, strappandole i fulmini. Io, non altri, quando mi caccio nei cunicoli della terra e contro le volte profonde, furibondo, in arco la schiena, terrorizzo coi miei scossoni i mani e l'intero universo. Di questo dovevo servirmi per ottenere la sposa e costringere Eretteo con la forza a farmisi suocero. Ciò detto ed altro di pari tenore, Borea si scrolla le ali e da quello sbattere tutta la terra è corsa da un tremito e rabbrividisce l'immensità del mare. Strascinando su per i monti il suo mantello di polvere, spazza il terreno e, nascosto nella nebbia, stringe Oritia, che trema, la amata Oritia, fra le sue ali rossicce. Il dimenio del volo rinfocola i fuochi del cuore, ma per arrestare la corsa sfrenata non tira le redini il ladro prima di giungere al paese e alle mura dei Ciconi. E lì la donna dell'Attica sposò quel tiranno di ghiaccio che la rese madre di 2 gemelli, in tutto e per tutto identici a lei, salvo che per le ali, retaggio paterno, non spuntate peraltro alla nascita, a quanto raccontano, finché sotto i capelli rossi non crebbe loro la barba, il piccolo Calai e Zete non avevano addosso una piuma. Ma appena le guance imbiondirono, cominciarono penne a fasciarne le scapole alla maniera di uccelli. Così nel tempo fra infanzia e giovinezza si mettono con i minii alla cerca del vello che irradia luce d'oro sulla prima di tutte le navi per l'ignoto del mare. E i minii solcano già con la chiglia tessala il mare. Han già visitato Fineo, che trascina una grama vecchiaia in un buio perenne, e i giovani figli di Borea han già scacciato le vergini uccello, svolazzanti sul viso del povero vecchio, e molto provati, al comando del grande Giasone, hanno raggiunto le rapide limacciose del fiume Fasi. Presentatisi a re Eeta, gli chiedono il vello di Frisso, ma lui pretende da loro orribili prestazioni, laddove la figlia del re è già lì che brucia d'amore. Fa di tutto per spegnerlo, e quando si accorge che la ragione si è arresa alla furia di quel desiderio, Medea, che resisti a fare, hai contro chissà quale dio, non mi stupirei fosse quello che chiamano amore o qualcosa del genere, pensa. Come mai i disposti del padre mi sembrano troppo severi? perché son troppo. L'ho visto appena e già mi preoccupo per la sua vita. Com'è che io mi preoccupo tanto? Espelli dal cuore le fiamme incipienti, se ci riesci, poveretta. Solo potessi, meno insensata sarei. Una forza strana, più forte di me, mi trascina. Il buon senso mi dice una cosa, i sensi un'altra. Il meglio lo so e scelgo il peggio. Perché ti innamori d'uno straniero, figlia del re? Perché sogni di sposare un mondo diverso? Non c'è in patria nessuno che meriti di essere amato. Che lui viva o muoia dipende dal cielo. Cosa c'è? Non potrei augurargli di vivere pur senza amarlo? Che ha fatto di male? All'età di Giasone, al rango, al coraggio, giusto un bruto potrebbe restare insensibile. E alla bellezza? Ma sì, basterebbe la bellezza a stregare chiunque. Al mio cuore è bastata di certo. Ma se non lo aiuto io, lo investirà il fiato dei tori, l'assaliranno nemici che avrà seminato lui stesso, o sarà cacciagione per la fame selvaggia del drago. Lo tollerassi, dovrei riconoscermi figlia di tigre, confessarmi dotata d'un cuore fatto di ferro e di pietra. Tanto varrebbe assistere alla sua morte con occhi complici, tanto varrebbe aizzargli contro i tori, i feroci figli del suolo, il drago che non dorme mai. Gli dèi non permettano, anche se questa non è materia di preghiere, è materia di azione. Ma che faccio? Liquido il regno di mio padre, uno straniero proteggo e senza sapere chi sia, che salvato da me, senza me, dia le vele ai venti, sposi un'altra donna, abbandoni Medea ai propri rimorsi. Se arriva tanto, se osa preferirmi un'altra, che crepi l'ingrato. Ma questo non vedi a guardarlo in faccia, anzi vedi una tale eleganza dell'anima, un fascino tale che escludo possa giocarmi e scordarsi tutto il bene che io gli avrò fatto. Comunque, prima pretendo che testimoni gli dèi si impegni sulla parola. Di che cosa hai paura? Muoviti. Lui non dimenticherà mai quel che ti deve. Con rito solenne ti sposerà e per ogni città della Grecia madri e asciami proclameranno te salvatrice di figli. E così, sorella, fratello, mio padre, i miei dèi, la mia terra natale, abbandonerò sulle ali del vento. Che c'entra? Mio padre è un selvaggio, la patria è un paese di barbari. Ancora è piccolo, mio fratello, mia sorella sta dalla mia e ho dentro un dio formidabile. Non lascio gran cosa. E mi voto a grandissime cose, a salvare la gioventù degli Achei, a conoscere posti più belli e città famose fin qui da noi, culture, costumi d'altri popoli. E al figlio di Esone mi voto, l'uomo che non cambierei per tutto l'oro del mondo, che quando mi avrà sposato diranno di me che gli dèi mi vogliono bene e che tocco il cielo col dito. Ma non si racconta di strane montagne con cui in alto mare si cozza o d'una Cariddi nemica dei marinai che ora risucchia le onde, ora le sputa, o di Scilla che fra cani ringhiosi rintrona di latrati il mar di Sicilia. Se avrò Giasone, che c'entra? Stringendomi al petto che amo, sfiderò la distesa dei mari. Non avrò paura di niente fra le sue braccia, o avrò solo paura per lui, mio marito. Ma quale marito? Che fai? Copri con nomi decenti questa tua colpa, Medea? Considera un po' che delitto stai per compiere e fuggilo, fuggilo finché sei in tempo. Detto ciò, le si paran davanti dovere, pietà di figlia, pudore, e la furia di quella passione si dà per vinta. Se ne andava agli antichi altari di Ecate, figlia di Perse, nascosti dalle ombre degli alberi nel segreto d'una foresta, sentendosi forte, sentendo sedata la fiamma, fin quando non vede il figlio di Esone e si rinfocola il fuoco. Le guance si arrossano, tutto il viso le si arroventa, e come succede che un'unica irrisoria favilla, nascosta sotto una falda di cenere, se alimentata dal vento, cresca e nel dimenarsi sprigioni il vigore di prima, così un amore attutito, un amore che sembra languire alla presenza del giovane da tanto è bello, divampa. E caso vuole che il figlio di Esone fosse quel giorno più bello del solito, come non perdonarla di amarlo. Lo guarda, non gli stacca gli occhi di dosso, quasi fosse la prima volta che lo vede, e delira, e si immagina che quello non sia creatura mortale, e non fa che fissarlo. Lo straniero allora comincia a parlare, le prende la mano e con un'ombra di voce le chiede aiuto e promette di sposarla. Questo le basta per rompere in lacrime e dire: «So quel che faccio, non è l'ingenuità che mi inganna. Se mi inganno è l'amore. Ti salverò, tu una volta salvo mantieni la tua promessa». E sul culto di Ecate, dea triforme, che a quel che si dice abita quella foresta, sul sole che tutto vede, padre del suocero prossimo, sul successo della sua rischiosissima impresa, lui giura. Preso in parola, riceve erbe incantate di fresco, ne impara l'uso ed in tenda si ritira tutto contento. Cancellato il brillio delle stelle dall'aurora dell'indomani, affluisce la gente e si assiepa sulle alture che accerchiano il campo sacro a Marte, vestito di porpora, del suo scettro d'avorio insignito, il re di persona presenzia con tanto di scorta. Ecco i tori coi piedi di bronzo, che dalle narici d'acciaio soffiano fiamme, strinando col vapore l'erba del prato. Mettono suoni del genere i camini stipati di legna o le fornaci di terra se sotto un getto d'acqua gelata il calcare in fusione, sfrigolando, prende a bollire. Così, avvitandosi, urlano le fiamme dentro a quei petti, dentro a quelle gole roventi. Tuttavia, il figlio di Esone va e li affronta. I tori, con occhiate terrificanti e corna a punta di ferro, lo puntano, e mentre gli zoccoli biforcuti scalciano e alzano una nube di polvere, quelli riempiono l'aria cacciando fuligginosi muggiti. Rabbrividiscono i tessali, lui si fa sotto senza avvertire i fiati di fiamma, tanto può la magia, e quelle giogaie pendule spudoratamente accarezza, aggioga le bestie, le obbliga a trainare un aratro pesante, solcando col vomere un campo che vomere non conosce. I colchi son lì a bocca aperta, i mini, incitandolo a urla, ne moltiplicano il coraggio. E lui, da un elmo di bronzo, denti estrae di serpente, e sul campo arato li semina. I semi, intinti a suo tempo nel veleno, la terra li stempera, e quei denti crescono, a segno di farsi corpi incredibili. Pensa come un bambino assume la forma umana nell'utero materno. Lì dentro compone in un tutto le membra e finché non è maturo non può uscire nell'aria di tutti. È così che quando nel ventre della terra si sono formate, dal terreno pregno vedresti figure umane che spuntano e mostruoso brandiscono armi spuntate insieme con loro. A vederli mirar con la punta delle aste aguzze la testa del giovane figlio di Esone, per lo sgomento i pelasgi si perdono d'animo. Basta guardarli in faccia. Lei stessa, che lo aveva reso immune, anche lei si prende paura. Lo vede lui solo, aggredito da tanti nemici, e sbianca. E, posseduta da un gelo improvviso, crolla a sedere. Temendo che le erbe fornite da lei non bastino, formula un incantesimo in più e si appella ai segreti dell'arte. E lui, scagliando un enorme macigno in mezzo ai nemici, storna da sé la violenza e la inietta tra i figli del suolo, che adesso si scannano l'uno con l'altro, fratelli che uccidono fratelli, una guerra civile. I greci esultanti si stringono al vincitore e fanno a chi se lo stringe più stretto. Anche tu vorresti abbracciarlo, principessa barbara, ma te lo vieta la reputazione. Ma tu no, tu lo abbracceresti lo stesso, ma ti dissuade dal farlo il rispetto di te. Ma nessuno ti può vietare di far festa nel chiuso del cuore, ringraziare i tuoi sortilegi e gli dèi che te li hanno insegnati. Non resta che assopire con l'erba l'insonnia del drago, il drago che ostenta una cresta, tre lingue, adunchi dentoni ed è l'orrendo custode dell'albero fulgido d'oro. Dopo averlo spruzzato col succo d'un'erba sonnifera, tre volte pronuncia una formula che infonde la pace del sonno, che seda il mare in tempesta e la rapina dei fiumi. E appena il sonno scende su quegli occhi che non lo conoscono, l'eroe si impossessa del vello e, fiero di quella preda, portandosi dietro seconda preda, la benefattrice, tocca da trionfatore con sua moglie il porto di Iolco.